E allora ritorniamo in diretta, come annunciato, per raccontare un'iniziativa che si va a tenere in questo fine settimana, dal venerdì alla domenica, iniziativa contro il razzismo nello sport, ma anche parecchie altre cose. E siamo al telefono con Giovanni, che salutiamo e ringraziamo, e che la cui voce qualcuno e qualcuna probabilmente ricorderà, perché sei stato fra i fondatori della trasmissione Terremoti, cioè la trasmissione. Ebbene sì. che qualche anno fa fu la prima trasmissione a occuparsi specificatamente di certi temi, quelli relativi alle lotte, quelle che vengono definite, insomma, lotte contro le grandi opere. Poi era un po' più complessa la vicenda, però questo per far capire. E poi, insomma, da lì è stato arato molto il campo successivamente, per fortuna. Allora, tu, diciamo, poi oltre a questo hai tutta una serie di altri interessi e attività. In questo, diciamo, il ramo sportivo è uno dei tuoi principali, sia come atleta sia come filosofo dello sport, diciamo così. Che cosa... Dicitura nobile, forse. Beh, per descrivere un po' troppo quello che molto umilmente proviamo a fare. Comunque sì, insomma, in realtà qualcuno ricorderà già all'epoca il tema che spesso affrontavamo con la trasmissione era proprio quello di collegare come alcuni grandi eventi sportivi poi avessero una ricaduta sui territori tale da dover, insomma, interrogare un po' tutti sulla funzione che avessero. In questo caso l'iniziativa, l'impatto sul territorio non ce lo vorrebbe avere, se non in termini virtuosi, speriamo, nel senso che è una 3 giorni di sport, quindi con tutto un aspetto legato alla pratica, soprattutto rivolta ai bambini, e un'altra, diciamo, componente che è quella invece più della riflessione, o del tentativo comunque di proporre anche alcune riflessioni sulla questione, insomma, dello sport e del suo possibile utilizzo, tanto per combattere fenomeni estremamente pericolosi, no? Rigurgiti di vario genere, così come per lavorare invece con la cittadinanza su tematiche che poi possono anche essere quelle di una diversa visione anche del territorio, dello spazio pubblico, dell'uso pubblico della città, no? Io vado avanti, Marco. Sì, sì, sì, sì, sì. Ti interrompo quando esageri. Ti interrompi quando vedi che lo sbrodolamento è eccessivo. Tanto per ritornare all'iniziativa, si svilupperà nell'arco di 3 giornate, come dicevi tu. Nella prima, cioè nella serata di venerdì, nel tardo pomeriggio di venerdì, nella sede romana della UISP, che è una delle, diciamo, associazioni che ha collaborato alla costruzione di questa 3 giorni, presenteremo un libro di psicologia dello sport, sostanzialmente. Lo ha scritto Flavia Sferragasta, che è un'allenatrice di rugby, anzi è l'allenatrice degli Reds di rugby, e che ha prodotto un lavoro molto interessante rispetto al ruolo dell'allenatore nel rugby, ma che va ben oltre, diciamo, il perimetro della disciplina e dello sport in se stesso, e che affronta questioni che possono riguardare non solo chi si trova ad allenare o comunque ad avere un'attività rivolta verso i bambini e la pratica sportiva, ma anche chi più in generale è impegnato comunque nell'insegnamento, proprio perché affronta le questioni della motivazione, del rapporto che si deve stabilire tra comunque un insegnante e chi, insomma, con lui inizia un percorso di formazione. Il sabato, nell'arco della mattinata, alla Polverità di Colleoppio, giocheranno i bambini nel famigerato o famoso, come vi piace di più, a seconda dei punti di vista, polveriera, e su quale poi, insomma, mi piacerebbe dire un paio di cose proprio, certo, per tornare alla questione dello spazio pubblico e dell'uso pubblico della città. In quel caso abbiamo allestito vari, divideremo il campo da calcio in vari pezzetti proprio per dare la possibilità a istruttori di diverse discipline di allestire delle lezioni aperte che vanno dalla capoeira al rugby stesso, proprio con gli Reds, al cricket con il Piazza Vittorio Cricket Club, noi con piccoli campi da calcio, e il basket che si colloca appena alle spalle del campo, dove c'è un pezzetto, diciamo, di cemento sufficiente per realizzare qualche partitella con i bambini. Allora, il pranzo poi, proprio alle spalle del campo, allestiremo un dibattito sul, pensando un libro che in realtà è già stato edito da qualche anno, ma che continuiamo a ritenere estremamente attuale, e che si intitola Molto più di un gioco. È la storia di come all'interno del carcere di Robben Island in Sudafrica molti detenuti che poi faranno parte, che facevano parte del movimento di liberazione contro l'apartheid, e che poi diciamo andranno anche ad occupare posti importanti nel quadro dell'ANC e non solo, all'interno del carcere trovarono proprio nella pratica sportiva, nella costruzione e organizzazione di alcuni tornei di calcio, un terreno estremamente fertile per misurare le loro abilità organizzative e per ragionare, diciamo, con gli altri detenuti e attivare dei meccanismi di politicizzazione che proprio attraverso lo sport riuscirono a diventare virtuosi e a avere diciamo, risultati molto importanti. E nel pomeriggio poi sempre del sabato, invece, al Campo Bernardini si realizzerà un torneo per adulti. Il Campo Bernardini è un campo che sta a Pietralata, un campo storico comunque, anche quello a Roma, dove appunto la polisportiva Socrates, che è un'altra associazione che collabora con noi e che ha collaborato all'organizzazione dell'iniziativa, allestirà un torneo di calcetto per i grandi, cosiddetti, e misto. Per concludere, la domenica alla scuola di Donato, l'ultimo dei, diciamo, partner di questa operazione. La scuola di Donato è una scuola che si trova vicino a Piazza Vittorio, per chi non lo sa, all'interno della quale da tanti anni c'è un'associazione di genitori estremamente attiva nel territorio e non solo, sulle questioni della ciclabilità, di un'altra città possibile, sull'inclusione sociale, sull'attivazione di laboratori per bambini di vari generi sportivi e non extra scolastici. E con loro all'orario, insomma, intorno alle 12 di domenica organizzeremo un dibattito intorno al famoso episodio di Città del Messico, e quindi intorno alle figure di Tommy Smith e John Carlos. In realtà Città del Messico 1968, caso, puntando l'accento ancora di più che su questi due, in realtà, insomma, per molti, forse non per tutti, ma comunque personaggi abbastanza familiari della lotta dei neri contro la segregazione razziale negli Stati Uniti, sulla figura del terzo incomodo, in qualche modo, cioè di quello che arrivò poi nella famosa gara dei 200 metri, Foreman secondo, proprio perché quell'australiano poco conosciuto fu invece molto importante per entrambi, perché li aiutò poi concretamente ad organizzare questa loro protesta, e con loro solidarizzò anche, diciamo, attivamente nel momento della premiazione, se ricorderete, insomma, portando una spilletta e dimostrando anche lui, senza sollevare il pugno, ma comunque un atteggiamento ostile, diciamo, a quello che stava accadendo al CIO, all'organizzazione delle Olimpiadi. Fra l'altro, loro si giocarono la carriera con quel gesto. Nel senso, subì un ostracismo. Se Smith e Carlos praticamente dovettero ritornare a casa con i soldi loro e con la colletta degli altri atleti presenti al villaggio olimpico di Città del Messico, venne ritirate le medaglie, gli viene fatto, insomma, di tutto, e pagarono caramente, insomma, questo loro gesto. Altrettanto avvenne per questo atleta australiano che subì un ostracismo completo da parte del mondo sportivo del suo paese, che si è poi, diciamo, spalmato per 40 anni quasi fino ai giorni nostri, quando in una lettera, insomma, di scuse il Comitato Olimpico Australiano, insomma, in qualche modo si sentì nell'obbligo di dover chiarire, ecco, le vicende. Col il dibattito, diciamo, e la presentazione di questo contributo lo coordinerà Valerio Piccioni, che è un giornalista della Gazzetta dello Sport, che è l'ispiratore di una corsa molto conosciuta a Roma, che è la Corsa di Miguel, che è una corsa podistica che coinvolge, insomma, migliaia di persone e che a sua volta ha una storia molto nobile, perché ricorda la figura di un desaparecidos maratoneta argentino degli anni 70 del golpe militare argentino. Valerio Piccioni è una persona molto, insomma, attenta a questi temi, e quindi sarà in qualche modo lui a organizzare la presentazione del dibattito, al quale poi abbiamo invitato alcuni personaggi del mondo della politica romana e dello sport a confrontarsi su alcune questioni. Te ne dico una, tanto per insomma, noi crediamo fermamente che sia necessario, insomma, un intervento immediato da parte delle istituzioni per recuperare la vagonata di soldi frutto delle multe che vengono comminate alle squadre di calcio per gli atteggiamenti, diciamo, non esemplari dei loro tifosi. Diciamo così. Nell'arco dell'anno scorso, diciamo, parliamo di una quantità simile ai 350-400 mila euro di multe, solo di multe, di denaro che noi pensiamo, insomma, che è destinato a progetti sociali e rivolto alle associazioni che stanno direttamente sul territorio, molti risultati ci permetterebbe, insomma, di ottenerli. Per cui ci pare, insomma, che una campagna rivolta in questa direzione per una volta possa essere molto sensata. Non è chiaramente l'unica misura. Il problema del razzismo, della discriminazione, che sia di genere, etnica, religiosa, all'interno degli stadi ha matrici estremamente diverse, connivenze che conosciamo e in alcuni casi appunto funzionali proprio a un certo modello di stadio e di sport, però ecco, se intanto quei soldini, insomma, in qualche modo non ritornassero alle stesse società, a noi farebbe molto piacere. Certo. Questo è un po' il quadro, insomma, della tre giorni. Senti, poi dicevi giustamente un accenno anche a uno dei luoghi in cui si terrà questa iniziativa, che è un luogo particolarmente significativo, che è quel campo, diciamo, più che campo di calcio. Quello campaccio, lo vuoi dire, che risponde al nome della polveriera, che, diciamo, è quello che si trova su Colle Oppio, proprio di fronte al Colosseo, e su cui, insomma, tanti hanno passato molti pomeriggi, e che nel corso degli anni poi si è tramutato anche in un luogo di incontro, soprattutto per tante persone provenienti dal Sud America, che ne hanno fatto in qualche modo un luogo di ritrovo fisso. Ecco, immaginiamo che il tenere una delle iniziative lì non sia stato proprio un caso, no? Ma assolutamente, certo, nel senso che anche lì Roma poi da questo punto di vista è una città emblematica, perché il rapporto che questa città ha con lo sport è un rapporto completamente privatistico, cioè è una città nella quale sostanzialmente si fa sport frequentando un centro sportivo privato, non esiste una dimensione diversa. Questo è in realtà valido complessivamente per quanto riguarda un po' tutto il mondo sportivo nel nostro paese, che è stato proprio direttamente appaltato al mondo privato fin dal primo dopoguerra, e senza che nessun intervento sia mai riuscito a diciamo, correggere questo problema, questa ferita iniziale. O a quello delle forze armate per quanto riguarda lo sport agonistico, no? Certo, poi chiaramente questo era legato a, e lo è sempre stato e continua ad essere ancora adesso, a una visione estremamente perversa dello sport, per cui lo sport nel nostro paese è esclusivamente lo sport che conduce l'atleta ad ottenere i migliori risultati in un percorso che deve portare al professionismo sportivo, all'agonismo e comunque ai vertici. Le risorse e l'organizzazione che lo sport si sono date in questo paese sono tutte quante state articolate in funzione di questo approccio, e nel tempo anche quei piccoli enti di promozione sportiva che hanno provato a fare lavori diversi si sono trovati sempre più isolati e in condizioni sempre più difficili per appunto invece lavorare sul discorso della promozione, che poi vuol dire tante cose, ma insomma, non c'è il tempo di chiarirle tutte, e, insomma, ci vorrebbe ben altro. Il campo della polveriera in questo caso non è un laboratorio molto emblematico, ma varrebbe per Villa Gordiani, varrebbe per tutti quegli spazi della nostra città dove in molti casi le comunità straniere, in altri non solo le comunità straniere, hanno provato a riappropriarsi di pezzi di città, anche molto semplicemente organizzando partitelle che possono essere di cricket o di calcio, in questo caso poco cambia, ma che sono, diciamo, patrimoni molto importanti da tanti punti di vista, che riqualificano automaticamente gli spazi, perché li fanno vivere, perché effettivamente li riempiono di persone che socializzano fra di loro, stanno insieme, si organizzano anche se si tratta esclusivamente di una partita, ripeto, indipendentemente dalla disciplina, e noi crediamo che questo vada favorito, in qualche modo vada favorito, vada costruito, anzi e possibilmente articolato su tutta la città. Io insomma sempre mi tengo alla larga dai classici ragionamenti sull'erba del vicino che è sempre più verde, però certo su questo tema bisogna riconoscere che in Europa l'approccio è completamente diverso e che lo spazio pubblico è uno spazio a disposizione della cittadinanza che lo utilizza molto spesso in modi che da noi sembrano assolutamente impraticabili. Allestire delle porte smontabili, dei canestri da basket, delle reti da pallavolo nei parchi, attivare dei percorsi che consentano alle associazioni in orari della giornata di fare delle lezioni aperte, questo pensiamo che sia uno dei tanti modi per avvicinare le nuove generazioni allo sport, e non solo le nuove generazioni, in un clima che non necessariamente debba essere quello della competizione sportiva portata all'ennesima potenza e agli eccessi che conosciamo. Questo si tradurrebbe secondo noi in un comunque complessivo avanzamento di tante cose che non hanno, diciamo, che non sono solo esclusivamente collegate al mondo dello sport, proprio perché il mondo dello sport è socialità, è passione, è organizzazione, e queste qualità insomma, per chi fa politica sa che sono comunque ingredienti fondamentali anche quando poi gli obiettivi non sono più appunto di ordine, no, atletico, ma di ordine politico. Insomma, ecco, questa è un po' l'idea. Qui uno dei nostri cavalli di battaglia, il tentativo è proprio sul luogo della polveriera di insistere con un ragionamento che porti questa amministrazione a fare delle valutazioni che permettano a chi lo sta usando di usarlo in condizioni migliori di quelle che esistono, insomma, che sono francamente intollerabili, perché non avere neanche la possibilità di bagnare un pochino il campo per poterci far giocare i bambini in condizioni decenti è sicuramente una questione intollerabile. Direi proprio di sì. Va bene Giovanni, chiaramente diciamo i temi toccati sarebbero degni ognuno di una chiacchierata di un'ora ciascuno almeno, però insomma i nostri tempi sono quelli che sono, per cui noi ricordiamo appunto questa serie di iniziative che parte da venerdì Pomeriggio alle ore 18 e si chiude nella giornata di domenica all'ora di pranzo. Magari ci torneremo brevemente anche nel corso del weekend per ricordarlo. Con te magari ci risentiamo in un futuro non troppo lontano per parlare di questi cartelloni sul vincolo sportivo che hanno invaso la nostra città e che forse potrebbero essere oggetto di un ragionamento abbastanza interessante, ma insomma ogni cosa a suo tempo. Grazie dello spazio e buon ascolto a tutti. Va benissimo, un abbraccio, rimani un secondo in privato per cortesia. Grazie.